America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. E questa è l'atmosfera di, come dire, felicità, allegria, contentezza, grandi risate, grandi urla che si trova nei Luna Park in genere, ma in questo caso nel Luna Park di Coney Island a New York, anzi a Brooklyn, perché subito al di là del ponte, dove c'è uno dei Luna Park più importanti d'America. Ecco, chi ha fatto questo Luna Park, che è poi un condensato di alta tecnologia, di creatività, di inventiva negli Stati Uniti? L'ha fatto un'azienda italiana, di cui vi parlai tempo fa, proprio quando si inaugurò questo Luna Park, perché quando il Luna Park di Coney Island aprì, divenne, come dire, uno showcase, un punto di riferimento per quello che è stato un grande progetto di conversione urbanistica organizzato dal sindaco Bloomberg, perché la zona era una zona depressa e c'era qualcuno che voleva costruire un grande shopping mall, insomma c'erano state una gran quantità di polemiche su cosa fare con questa zona. Poi ci si è accorti che proprio lì, e tra l'altro c'era ancora perché era celebre il Luna Park, c'era la sede del Luna Park originale. Il Luna Park, proprio come dice il termine, era un gioco che doveva portare gli utenti, tra virgolette, sulla Luna. Questo all'inizio del secolo, quando ci furono le grandi fiere universali, tipo l'Expo che abbiamo adesso a Milano, qui a New York. E chi l'ha fatto questo Luna Park? Chi si è aggiudicato il contratto per questo straordinario progetto? Beh, è stato appunto Zamperla. Zamperla è un'azienda che ha sede ad Altavilla Vicentina e guidata dal signor Alberto Zamperla, che ho il piacere di avere di nuovo con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Zamperla, come stai intanto? Perché è un po' che non ci sentiamo. Molto bene, grazie. Il parco è aperto anche per questa stagione e sta dando degli ottimi risultati. Ecco, se non sbaglio, state organizzando per settembre una convention di tutti gli operatori, 400 operatori mondiali che operano nel settore dei parchi giochi, dei parchi divertimento, dei Luna Park, o sbaglio? Hai ragione, infatti approfittiamo di questa occasione di avere un parco praticamente Zamperla con più di 35 attrazioni, tutte Zamperla, dove anche presentiamo le ultime novità, le ultime macchine che abbiamo realizzato, quindi una presentazione mondiale, la facciamo qui l'11 di settembre a Coney Island, invitando gli operatori di tutto il mondo e dando il premio, il riconoscimento ai parchi che secondo noi sono un esempio di operazione, di inventiva per gli altri parchi al mondo. Mi dica, qual è l'attrazione più nuova, più recente? Stiamo sviluppando una nuovissima attrazione che si chiama Aero Zoom. Questa attrazione ha la caratteristica di essere interattiva. Che cosa succede? I passeggeri che salgono su questa attrazione possono azionare manualmente una vela e quindi potranno salire e scendere a loro volontà muovendo questa vela. I miei ingegneri hanno realizzato un sistema che pesa praticamente le persone e rende il peso dell'attrazione praticamente simile per tutti quanti, indipendentemente da che peso c'è. E scusi, mi tolga una curiosità, ma è un po' come volare su un aliante, cioè non ci sono rumori proprio così. E la macchina è molto silenziosa, gira e hai proprio l'effetto del vento, per questo infatti la chiamiamo wind zoom, no? Hai realmente l'effetto del vento e utilizzi il vento, l'aria, per poterti alzare e abbassare. Quando sarà pronta questa macchina? L'abbiamo in testing, stiamo facendo i collaudi adesso in Italia e spero che i miei tecnici trovino tutte quante le soluzioni e anche le sicurezze, perché prima di tutto vogliamo che la macchina sia super sicura, e a giorni appena hanno risolto e mi dicono no Zamperla, siamo tranquilli, la possiamo spedire, la spediamo. È questione proprio di giorni. Inizialmente volevamo averla qui per il 4 luglio e invece arriverà un pochettino dopo. Ci dica, quanto conta l'America per il suo giro d'affari? Perché lei vende anche a Disney, vende anche a Universal Studios, a Coney Island gestite anche tutti gli impianti, però avete anche delle attività di vendita. Ecco, quanto pesa l'America, l'esportazione in America sul vostro business generale? Tenga presente, noi facciamo un fatturato attorno ai 70 milioni, mm-hmm. E gli Stati Uniti rappresentano il 25%. Che è bello, che è un mercato stabile, cioè noi conosciamo i parchi, eccetera, visitandoli abbiamo una continuità nel nostro lavoro. poi, essendo un mercato da un lato maturo ma con grande esperienza, i loro consigli, avere successo, come diceva Frank Sinatra, no? If you make it here you can make it anywhere, ed è realmente così. Ecco, ma con questa percentuale del 25%, l'America è il primo mercato, o non so, il primo mercato è l'Italia in assoluto, oppure la Cina? Purtroppo l'Italia è una dei peggiori, abbiamo soltanto meno di un 5% in Italia. Attualmente il mercato più importante è la Cina, dove ci sono delle grossissime compagnie. I cinesi si stanno cercando di creare il mercato interno, vogliono, certo, che i cinesi spendano i soldi all'interno della Cina. E quindi quanto pesa la Cina? Attualmente il 20%, però deve tener conto di una cosa: 2 anni fa il Guatemala è stata la nazione più importante perché abbiamo consegnato un intero parco di divertimenti. Certo, e certo. Adesso sì. Il Guatemala invece rappresenta poco, cioè una delle capacità della Zampella è quella di realizzare un parco di divertimenti completo. Certo, ecco, però Baghdad al momento. Bene, allora scusi, la interrompo un attimo per fare una piccola riflessione, perché io parlo spesso dell'importanza del commercio, del fatto che le aziende italiane possano crescere soltanto se riescono ad avere un mercato globale, e come lei sa ci sono molti che in Italia hanno resistenze per esempio al dialogo sul TTIP, cioè questo accordo che si sta negoziando fra Europa e Stati Uniti per poter aprire i commerci transatlantici. Eppure, io continuo a insistere, l'apertura è molto meglio della chiusura, numero uno. Numero due, essendo noi un paese molto piccolo, soprattutto se confrontati all'America, alla Cina, all'India, al Brasile, non possiamo che andare avanti se riusciamo ad esportare in modo aggressivo. E lei è un esempio classico di questa cosa, perché il 5% del suo mercato è in Italia. Ecco, ci sono due domande su cui vorrei chiudere. La prima è: cosa pensa di questo fatto dell'apertura? Cosa pensa di coloro che ostacolano il TTIP e che non vogliono aprire i commerci? E la seconda: ma come mai in Italia abbiamo solo il 5%? Perché siamo più tristi o perché siamo più poveri? Allora, rispondendo alla prima domanda, dobbiamo essere competitivi. Se non impari a essere competitivo e ti chiudi a se stesso, lascerai il mercato in mano ai cinesi. Quindi è fondamentale la competizione, sapersi aprire e l'innovazione. Se no non esisteremo più. Due, siamo pieni di burocrazia e siamo anche pieni di rispetto umano. Quando io parlo con qualcuno in Italia mi dicono: Alberto, che cosa fai? Costruisco giostre. Perché? Per i giostrai non sanno che è un mercato importante. Io le faccio un esempio: quando gli americani sono entrati a Kabul una decina d'anni fa, c'era una foto sul Corriere della Sera di una postazione di obici e i ragazzini afghani hanno preso i bossoli del cannone e si sono fatti una giostrina. Perché subito dopo che la gente ha mangiato, la seconda necessità è quella di potersi divertire, è di quella di uscire dalla normalità. I romani che cosa facevano? Panem circenses. E 2000 anni dopo è ancora valido il concetto. Peccato che in Italia abbiamo questo preconcetto. Forse ci ricordano le giostre quando andavamo alle fiere di paese, quando eravamo poveri, e quindi non riusciamo a devolverci, a capire che anche per un momento all'anno la giostra può essere un momento diversivo. E di questo, mi creda, di diversivi ne abbiamo bisogno, e dobbiamo anche crederci che possiamo cambiare e fare meglio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me Alberto Zamperla, il grande giostraio, il grande produttore di Luna Park per il mondo. Ma senta, ce la sceglie lei una canzone, cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori? Ben volentieri, perché no? Ticket to Ride dei Beatles. Ticket to Ride, perfetto, quindi il biglietto per la giostra. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!